La prossima iniziativa sarà la pulizia del bosco che rifacciamo dopo settembre dell'anno scorso, a grande richiesta dei volontari che hanno partecipato. La organizziamo insieme a Lega Ambiente, abbiamo già avuto l'adesione di una ventina di gruppi e di associazioni bolognesi che attraversano diverse realtà, anche nuove, che si stanno muovendo in città. Sabato mattina ci troviamo alle 9 all'angolo tra via Burgatti e via dell'Ospedale, poi da lì partiranno le squadre di volontari per accogliere dove abbiamo già visto grandi concentrazioni di rifiuti e continuare quel lavoro che abbiamo iniziato. Per prenderci cura di questo bosco urbano. La prima edizione fu molto bella, molto partecipata e anche un esempio di non violenza, nel senso che alcune ragazze offrirono dei fiori ai carabinieri in stato di guerra che erano intervenuti molto bellicosi e poi invece alla fine firmarono le petizioni e si dimostrarono favorevoli a questa iniziativa. Sì, diciamo che ormai le forze dell'ordine in generale ci conoscono perché abbiamo organizzato tantissime iniziative in questi 2 anni, abbiamo avuto anche un certo riconoscimento del valore civico di quello che stiamo facendo, però ricordiamo che il bosco urbano dei Prati è inaccessibile, entrare appunto non è un'azione legale, è un atto di disobbedienza civile, quindi come lo diciamo a tutti i volontari che si rendono disponibili, naturalmente non è così scontato che questo lavoro che faremo sabato mattina sia accolto e anche consentito dalle forze dell'ordine. Vedremo, la volta scorsa c'è stato un grande rispetto, un grande riconoscimento, vedremo appunto se le condizioni sono cambiate oppure no. In questa settimana c'è stata anche una novità da parte della proprietà, è uscito fuori il nuovo presidente dell'Invimit che ha reclamato ancora questo discorso della cittadella della moda, l'outlet. Che cosa sta accadendo? Ma l'uscita del nuovo presidente, diciamo, è stata un po' un ritorno al passato. Sembrava che lui non conoscesse quello che era successo in città, in consiglio comunale con l'istruttoria. Crediamo che lui lo conoscesse benissimo e quindi pensiamo che questa sia stata un'uscita un tantino provocatoria. Quello che noi sappiamo e su quale non transigiamo è che fino al consiglio comunale, pur non avendo, diciamo, eliminato l'ipotesi di trasformazione urbana dei prati est, cioè del bosco urbano, ha, diciamo, cominciato a riconoscere il valore ecologico di quell'area e quindi le stesse dichiarazioni che sono uscite sulla stampa dalla maggioranza, l'ordine del giorno che è uscito lunedì, votato dalla maggioranza dei 5 Stelle e perfino l'intervista al sindaco, in qualche modo, quantomeno dicono oltre, no, a una certa soglia non torniamo indietro, quindi no all'outlet e anche, diciamo, rivediamo quelle che sono le previsioni iniziali. Noi vogliamo addirittura che queste previsioni vengano ulteriormente, diciamo, modificate a difesa del bosco, quindi non certo ci distraiamo o ci facciamo, diciamo, proprio. Esatto, Merola si è espresso quindi in modo chiaro e sembra che su questo argomento non ci siano punti di disaccordo. Prossime iniziative future, ho sentito parlare di un concerto quest'estate. Sì, allora diciamo dopo aver pulito il bosco, come l'anno scorso, vorremmo dimostrare che questo spazio è già fruibile, ci sono dei grandi attraversamenti molto comodi per le biciclette, per le passeggiate, ci sono degli angoli di frescura quando finalmente arriverà la primavera, davvero l'estate. Quindi abbiamo una serie di progetti sia sportivi, ricreativi, culturali, a cui stiamo lavorando e che sveleremo via via che saranno definiti.